amiche e amici del Move to Groove. 11 marzo 1981, Houston Rockets 109, Golden State Warriors 92. A farla da padrone e soprattutto il vuoto sotto canestro è Big Mo, Moses Malone, 51 punti, con 20 su 28 dal campo, 11 su 12 ai tiri liberi e 19 rimbalzi. Un autentico dominio sotto le planche. Buongiorno a tutti. Grazie Paolo per la palla 2. Buongiorno amiche, amici sportivi e non sportivi, amanti del Move to Groove che riporta il parquet nella quotidianità. Come ben sapete, ho detto più volte, il basket nei college USA è tra l'altro materia di parallelismo tra materie umanistiche e anche scientifiche, per cui direi che possiamo azzardare anche nel format del martedì di portare alcuni momenti non solo di sport che nella nostra vita possono essere presenti sempre e comunque, come essere al posto giusto e al momento giusto, una caratteristica che appartiene al nostro Rookie of the Year, Pietro Rossi. Buongiorno. Così è buongiorno stato. Willy, buongiorno. Non è casuale, tra l'altro, anche il filo conduttore odierno. Ti sei ritrovato per un tirocinio, la grande passione per il basket NBA e per il vero basket, oltre che esserne informato per quello contemporaneo. Io continuo con l'hashtag cambiategli nome, che può essere condivisibile o no, però in tutti i modi il Mood Groove riporta anche questa particolarità, e poi in diretta appunto per dare approfondimento con protagonisti, spazi, momenti, periodi e identikit. Ed è da un identikit che vogliamo partire, da una tua suggestione, caro Pietro. C'è un atleta che ha avuto una carriera estesa e costellata di successi. Uno può pensare, beh, ovviamente un gigante della pallacanestro, del resto è un giocatore molto forte, però con 7 anelli, campione NBA per 7 volte, dal 1976 nessun altro atleta ha vinto quanto il nostro protagonista. Allora pensiamo a Kareem Abdul-Jabbar, a Larry Bird, a Magic Johnson, al grande Moses Malone, a tutti i giocatori plurivincenti. No, parliamo di Mr. Robert Horry, detto The Big Shot, e in questo caso lascio a te la parola per un identikit, diciamo, specifico, che magari vado a completare con alcune caratteristiche. Chi è Robert Horry, caro Pietro? Robert Horry, alla piccola, grande, in base appunto al periodo del gioco, secondo me ad oggi potrebbe giocare anche da centro in quintetti piccoli, perché comunque buon tiratore, avrebbe potuto allargare il campo. E breve profilo statistico: in 1100 partite Robert Horry, 1100 partite di carriera, Robert Horry segna 7 punti di media con 5 rimbalzi e 2 assist, col 42% al tiro, sì, e il 30% da 3. Non certo dei numeroni, no, di anzi. Però al contempo è il giocatore che ha vinto più anelli nella storia a non essere un Celtic, perché i Celtic con quegli anni 60 e 70 hanno un po' drogato le statistiche. È il secondo giocatore, insieme a Derek Fisher dopo LeBron James, per vittoria nei playoff. E appunto ha vinto con tre squadre diverse. A sette anelli, ha vinto con tre squadre diverse. Ha visto tre ere diverse di pallacanestro vincenti, sì, se così possiamo dire. Lui ha giocato con Olajuwon, con Shaq e Bryant, e poi con Duncan, Ginobili e Parker alla fine. Tra l'altro, interessante, perché quando gli è stato chiesto chi è il compagno più forte con cui tu abbia mai giocato, uno direbbe: ah no, sarà Kobe Bryant, sarà Tim Duncan, sarà Shaq. Lui ha detto Olajuwon, ma con distacco. Non è casuale questa scelta, secondo me. Comunque ne parleremo. Lui viene scelto dagli Houston Rockets, è l'undicesima scelta al primo giro. È un giocatore che arriva a Houston per una generazione di cambio dopo la sconfitta contro i Boston Celtics imbattibili dell'86. Quindi un giocatore che vivrà gli anni 90 da protagonista, a fianco a delle stelle di grandissimo valore, e questo è molto importante, lo andremo a sottolineare a breve, come già anticipato Pietro. Una mano, secondo me, certo, dall'esito non sempre vincente, ma vincente quando conta, vincente, esatto, quando serve per portare a casa il risultato, e non per una singola partita, per un campionato intero, perché la caratteristica di Robert Horry, detto anche The Big Shot, è esattamente questa. Lui ha messo i tiri decisivi nei percorsi vittoriosi delle franchigie di Houston, con cui vince 2 anelli, con i Lakers mi pare che porti a casa 3 anelli, in chiusura con San Antonio, dove nel Texas porterà 2 titoli. Lui sempre protagonista nei momenti decisivi, è al posto giusto nel momento giusto per una carriera, insomma, che, come ha letto tra l'altro lui, non so, sulle 82 partite di regular season, a volte ne ha fatte anche la metà, ecco, per sì dire. Sì sì, cioè per esempio nel 96 ne fa 54, sì, nel 99 ne fa 38, non era costantissimo, o meglio, come hai detto te, non era costantissimo prima e poi dopo invece, come dire, per esempio uno direbbe Robert Horry, no? Giocatore da al massimo 12 punti di media in carriera, cosa farà mai in un contesto come quello delle finals? Nelle finals, per esempio, del 95, di media aveva quasi 18 punti e 10 rimbalzi, tirando il 40% da 3, quindi... E insomma, diciamo che il rendimento cambia. Il rendimento cambia. A me è venuto in mente un giocatore, no? Italiano, tale... certamente un backup del backup, Mario Governa, che marcava i McAdoo, i Daryl Dawkins, i Joe Barry Carroll, soprattutto era il terzo lungo dell'Olimpia a Milano, e ha vinto tutto da dodicesimo, però ha un palmarès incredibile e avrà giocato 3 minuti a partita. Questo no, anzi 3 minuti a campionato, scusate, questo assolutamente no, pur avendo un rendimento, mi permetto di dire, a livello di numeri mediocre, beh, lui è al punto giusto nel momento giusto. Questo non è casuale, e dopo tanta conversazione per darne un identikit, continueremo nell'approfondire il concetto di essere al posto giusto nel momento giusto sul 103.1 di Radio Città Fujiko con il Breakfast Club. A tra poco. Perché per Robert Horry non lo puoi descrivere, lo devi vedere con me sul campo, un autentico genio, e dico genio della difesa. L'aiuto e recupero è la specialità della casa, grandissima anche nel wolfing out, capace di prendere l'ala piccola come l'ala grande e fargli passare il più brutto quarto d'ora della carriera. Un vincente, non ti guastava neanche in attacco, ricordiamo che alle Finals 95 al suo secondo titolo viaggiava poi in doppia doppia di media, in quelle finali. Mano mortifera da 3, molto migliorata con l'andare della carriera, perché quando l'atletismo ha smesso di essergli amico, si è poi dedicato ad altre specialità. Veramente un vincente con la V maiuscola. Lassaroni alla tromba per questo lavoro, che è un all-star, vede Ron Carter al contrabbasso, Cedar Bolton al pianoforte, Lenny White alla batteria, un vero all-star game in un modern hard bop in playlist al Breakfast Club quando sono le 8:15 minuti. Al posto giusto, nel momento giusto, grandi movimenti, e anche qui apro una parentesi ed entro anch'io nel commento, seppur già in un periodo in cui mi allontanavo dalla NBA, però ho conosciuto visivamente questo giocatore e mi è piaciuto tantissimo da subito, e come ben sai io sono un esteta della pallacanestro. Il movimento di tiro dal gomito alla punta dell'indice, l'ultimo dito che lascia la palla durante l'esecuzione di tiro, per me era perfetto, era veramente da insegnare nelle scuole, esattamente perfetto. La vicinanza a grandi campioni, come abbiamo detto, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Duncan Robinson e ovviamente Hakeem Olajuwon, poi arrivò anche Clyde Drexler negli Houston Rockets, seppur a termine carriera, ha permesso a Robert Horry di allontanarsi da questo fulcro di gioco, trovare lo spazio per lo scarico. Non è esattamente grandi movimenti senza palla, i grandi movimenti senza palla li aveva Jim Paxson dei Portland Trail Blazers, un manuale per come si gioca a pallacanestro senza palla. Ecco, Robert Horry sapeva allontanarsi al momento giusto per poi concludere in maniera assolutamente smarcata e libera. Il problema è che la metteva soprattutto quando c'era motivo di vittoria per partite fondamentali. Sette anelli sono tanti, sono molti. Mi parlavi anche di dissidio con Phil Jackson, è molto particolare questa storia. Robert Horry, a livello di aneddotica, testa non calda, perché comunque non è stato sai uno che ho visto che lui si atteggiava un po'. Sì, esatto. Però hai detto bene, secondo me testa calda no, però uno con un grande rispetto di sé, e quindi no. Non l'ultimo arrivato, raccontano più persone, io faccio l'esempio di Shaq, che lui aveva un rapporto molto conflittuale con Phil Jackson, perché Phil Jackson anche di lui un altro sarebbe, carattere, esatto, ci sarebbe da parlarne. Lui non apprezzava molto i metodi zen di Phil Jackson, era molto polemico, perché Robert Horry è una persona polemica da quel che traspare. E Phil Jackson reagiva a questo suo essere polemico punzecchiandolo in continuazione. Il rapporto fra i due era molto teso, rapporto qualcuno direbbe felice, perché comunque tre titoli se li sono portati a casa. Ma Robert Horry nell'estate del 2003 decide di andare ai rivali di San Antonio, che in quel momento è inizio 2000, tra San Antonio e Los Angeles c'è una buona rivalità, e poi nei playoff del 2004, nelle finali di conference che i Lakers vinceranno con un tiro miracoloso di Derek Fisher, ci sarà un grande astio fra Robert Horry e Phil Jackson. E che, perché tra l'altro, come tanti allenatori, ha bisogno di una vittima sacrificale, esatto, di un capro espiatorio. Gli allenatori tendenzialmente che non sanno fare il loro lavoro hanno bisogno di tutto ciò. Non è il caso di Phil Jackson, diciamo che è un difetto di Phil Jackson. Per tantissimi allenatori che ho conosciuto, questo aspetto di avere un capro espiatorio, di avere una vittima sacrificale da massacrare ogni volta, è una caratteristica purtroppo abbastanza comune, soprattutto quando la capacità di allenare o di condurre una squadra in percorso di campionato non è esattamente eccelsa. È più comodo avere appunto uno scaricabarile. Purtroppo è incappato in tutto ciò anche Phil Jackson, a quanto pare, con Robert Horry, che non era certo il personaggio che accettava e stava zitto. No, anzi. Beh, insomma, essere al posto giusto nel momento giusto, lui l'ha saputo eseguire alla perfezione. Sette anelli non sono pochi. Certo, ha giocato vicino a delle stelle di grandissima levatura, e questo indubbiamente ha portato a questo percorso un aspetto agevole. Allora, le prime conclusioni a ridosso dello stacco pubblicitario: per essere al posto giusto nel momento giusto bisogna far parte di un team di grande valore. E questo vale nella vita, nei rapporti umani, nella società, nel lavoro, perché no anche nell'amore. Bisogna essere circondati, insomma, da un insieme di cose e da un team di un certo valore. Questo indubbiamente agevola essere al posto giusto nel momento giusto. quella dose di opportunismo, perché no, e anche di cinismo che possa portare al risultato nel lavoro, nella vita, ho accennato anche, perché no, nel sentimento, e qui non voglio scadere nella banalità, però vi è mai capitato di trovare un medio man, cioè un personaggio che non è esattamente un playboy, ma che trova un riscontro molto importante, no? E fateci caso, quando vuole conoscere è sempre con la risposta pronta e al momento giusto, è accattivante al momento giusto, sa sparire al momento giusto per poi ripresentarsi quando appunto necessita il motivo di incontro. Sì, sono tanti piccoli accorgimenti, tante piccole cose che anche in ambito sentimentale, adesso non voglio dare lezioni di cuore, non ne ho la capacità, però per esperienza vi posso dire questo. Ma come, è sempre in compagnia assolutamente gradevole, e dire che insomma, certo, però sempre, poi non aggiungo il commento che è negativo e molte volte dettato dall'invidia, anzi il più delle volte, però se fate caso al personaggio in questione, ha sempre la capacità di essere presente quando necessita, di non disturbare ulteriormente quando è il momento di scomparire, per poi essere con il motivo di conversazione immediato, brillante, mai banale. Insomma, sono tutti piccoli accorgimenti che danno il tiro vincente, come allo stesso modo Robert Horry è capace di portare l'anello in tre compagini e franchigie diverse per ben 7 volte, per cui uno dice sarà stato Larry Bird, sarà stato Magic Johnson, Moses Malone, Kareem Abdul-Jabbar, no, è quel personaggio medio man, esattamente come ho citato in precedenza, che però trova un grandissimo riscontro in diversi ambiti. Ciò non toglie, anche in ambito, si può fare il parallelismo lavorativo, no? In ambito lavorativo il personaggio che svolta la situazione con momenti fondamentali, eppure dici non è questo grandissimo talento, com'è possibile? Tutto ciò anche con un pizzico di invidia molte volte, questa non manca, siamo umani del resto, eh. Jackson, che è furbo ma non è stupido, idem come Greg Popovich, però questi giocatori si ritenevano stretti, quindi fattore Zen, fattore regime militare va bene poi fino a un certo punto, perché poi devi avere poi quelli buoni veramente per vincere. Quindi mi viene in mente alcune scene di playoff NBA dove quelli buoni, che però erano circondati da ancora più buoni giocatori, hanno fatto la storia del basket. Mi viene in mente Larry Bird e il recupero contro i Pistons e l'assist per Dennis Johnson, il tap-in di Patrick Ewing alle finali di conference del 94, il tiro, un paio di tiri allo scadere di Michael Jordan contro Cleveland e contro i Utah Jazz. Bisogna essere sempre attorniati da brava gente, oltre ad essere bravo te, secondo me. Stolen Moments, da una scrittura di Oliver Nelson, qui reinterpretata per la Hip Hop Record, sempre Lenny White alla batteria, Kenny Barrell alla chitarra, Ron Carter al contrabbasso, Cedar Walton al pianoforte. Io tra l'altro chiaramente sono più incentrato sull'inizio carriera di Robert Horry, quando arriva negli Houston dopo le sconfitte con i gloriosi Boston Celtics imbattibili, no? E riprendono e costruiscono la squadra, tra l'altro quei Boston, scusate, Houston dell'86, molto affascinanti, con Rodney McRae, Lewis Lloyd, un redivivo e fortissimo Robert Reed di cui abbiamo parlato, e un Ralph Sampson purtroppo in difficoltà. Lui lui uno dei più grandi giocatori che io abbia mai visto giocare, però purtroppo non fortissimo dal punto di vista della mentalità, a volte capita, però un giocatore eccezionale. Beh, succede per motivi di infortunio e, come ho detto, per motivi caratteriali, che la coppia Twin Tower si spalda, si costruiscono altri Houston Rockets intorno ad Hakeem Olajuwon e arriva da Sacramento un giocatore fortissimo, secondo me, che in coppia con Robert Horry poteva essere un crack. Lo è stato anche. Sto parlando di Otis Thorpe, non so se ricordi questo atleta, un 4 molto forte, reattivo, dinamico, rimbalzista, realizzatore, è stato anche un All-Star. Insieme a Robert Horry avrebbe formato, secondo me, una coppia di ali che con Hakeem Olajuwon, una front line veramente tosta, per usare un termine immediato. Poi con l'arrivo di Clyde Drexler per dare spinta dietro, esperienza e capacità di completare uno starting five assolutamente devastante, e in seguito arrivò anche l'anello. Ma Otis Thorpe proprio quell'anno lì fu ceduto a Portland, fece solo mezza stagione. Anche questa, secondo me, è un altro aspetto, magari del pestarsi piedi, il rischio c'era, però entrambi, per quanto riguarda il gusto personale, mi piacevano tantissimo come giocatore. Caro Pietro, per essere al posto giusto nel momento giusto bisogna passare tanti tanti momenti anche dietro le quinte, a quanto pare. Evidentemente, facendo la nostra analisi tra perché, filosofia e un aspetto cestistico che può insegnare nella vita, bisogna restare a lungo anche dietro le quinte e saperci stare. E certo, poi andare a realizzare in quel momento, pensate, nello stile di Horry, allontanandosi dal... E anche questa è un'altra, diciamo così, contraddizione filosofica che può portare a diverse immagini iconografiche di riflessione. Enforcer, l'ottima spalla di Hakeem Olajuwon, un po' come era Charles Oakley per Patrick Ewing, mani potenti, punti nelle mani, volendo a Sacramento viaggiava a 20 di media, dopo si è specializzato molto su difesa e gioco di squadra, uomo da doppia doppia, veramente tanto talento, era un po' il Buck Williams dell'Ovest, quando Williams giocava nei Nets, che era bravo, il franchise player, per poi ridimensionarsi in quella Portland che arrivò a un soffio, a due finali NBA, perse tutte e due. Ho andato a citare il mio cerbiato, il Buck Williams. In effetti un Otis Thorpe potrebbe essere in versione, se vogliamo, leggermente una proiezione. Sì, come paragone ci sta, dai percorsi assolutamente diversi, sia Otis Thorpe che Buck Williams. Sono le 8:30, andiamo in pubblicità, tra poco rientriamo sempre in musica e con il Mood Groove per essere al posto giusto e al momento giusto. A tra poco. talk is Messiah, Garvey prophet in his time. When he dropped the speech, the subject was the Black Star Line. Tried to reach the public, but they was blind. He said, let's take it back to Africa and to our own kind. It's time to use your own mind and do for self. Instead of eating swine, ruining your health, making up as wealth, a concept that we couldn't grab. Something like a yellow cab, brothers getting treated bad. Way before the days of my dad, so a blazer bag, cause I'm crazy mad. Released in, police trying to close my gate over in Fort Greene. Hit them up with 14, cause I don't play like a sports team. Lord J, living with thoughts of cream. Minuti per questo 12 marzo imprevedibile, seppur d'anticipo di primavera, al posto giusto nel momento giusto. Cambiategli nome, l'hashtag del Mutu Groove in questa stagione al Breakfast Club, in relazione a una pallacanestro che ormai di pallacanestro come ne parliamo noi a poco, per cui potrebbe essere, per così dire, un accorgimento che è un talento invece nella caratteristica di filo conduttore della puntata odierna, essere al posto giusto nel momento giusto. Ormai vi ho ammorbato con questo termine che ho ripetuto in continuazione, ma del resto per oggi tant'è, ed è un talento naturale, non forzatelo, quello che vi posso aggiungere come consiglio personale, non forzatelo o studiatelo a tavolino, perché è una caratteristica secondo me innata. Rischiate poi di riportare la quotidianità in maniera totalmente opposta, e qual è l'opposto della caratteristica che non ripeto per ovvie ragioni? È diventare inopportuni. Questa è la caratteristica opposta al motivo di conduzione odierna nel Move to Groove. Come si può essere inopportuni nella pallacanestro? Beh, ve lo diciamo subito. Anche quello è un talento, Anche quello è un talento, sì. Allora, impostate l'uno contro uno, avete tutto lo spazio e il vostro compagno taglia verso di voi portandovi l'aiuto. Questo è l'inopportuno, esatto. Ok? Questo durante un uno contro uno, avete il tempo, avete preso il passo giusto, cosa fa il vostro compagno? Taglia verso la palla incontro a voi e vi porta involontariamente l'aiuto dell'avversario in difesa. In questo caso è un atteggiamento inopportuno. Con conseguenti sguardi di fuoco poi tra compagni di squadra, arrivano poi degli sguardi di fuoco immancabili in queste chiamate sovrapposizioni. Allo stesso modo anche un aiuto mancato è un atteggiamento inopportuno, eh? Aiuto, ti scappa l'uomo e dall'altra parte distratto il difensore. E te sei lì solo con tre che arrivano. E quindi è esattamente l'opposto al motivo di conduzione odierna nella vita quotidiana. Tornando all'Italia, ogni tanto facciamo anche qualche citazione, e qui chiedo aiuto a Paolo che da remoto sta facendo il contrappunto alla nostra musica, alle nostre chiacchiere. Beh, per l'Italia, ecco, esattamente un atleta, un cestista che possiamo sovrapporre a Robert Horry, chiedo aiuto in questo caso a Paolo Onofri. Quello che per primo mi viene in mente è Roberto Ciccio Premier, di cui vi parleremo a breve, un atleta che al posto giusto e nel momento giusto magari prendeva lo sfondamento, magari faceva arrabbiare l'avversario, magari giocava per coprire i buchi sulla 1-3-1, il tiro vincente se lo prendeva, un giocatore molto molto forte, antipatico se vogliamo, ma ciò non toglie che fortissimo. Thank you. ce n'erano, a me mi viene in mente Sergio Donadoni, Mimmo Zampolini, tutta gente che veniva di solito fuori dalla panca e quando c'era bisogno il loro punto, la loro giocata difensiva la portavano a casa ed era tutto fieno in cascina per la propria squadra. Vedi, sto perdendo dei colpi, Pietro, ce ne sono, sì, esattamente, grande Donadoni, giocatore, un tiratore, un realizzatore, in questo caso nella Indesit Caserta, nei percorsi vincenti anche della Reginetta del Sud, accompagnato già da Oscar Schmidt, grandissimo realizzatore, ma arriverà la vittoria con Shackleford e Tellis Frank, due giocatori fortissimi, tra l'altro, un centro Shackleford e Tellis Frank, un 3, un 4, un all around player di fisicità ma di un acume cestistico incredibile, ex Golden State Warriors. Pensa che Zampolini, invece, Domenico Zampolini a Pesaro, ex Rieti mi pare, addirittura portò un tiro alla Robert Horry contro la Sinudine Bologna in una partita fondamentale di semifinale playoff mi pare. Giocatore da una mano veramente mortifera, una fisicità non esattamente dal punto di vista estetico o qualcosa di accattivante, ma a dispetto di una massa corporea importante e imponente, lui era un grandissimo, lui è, e almeno adesso non credo perché gli anni passano per tutti, però reattività e elevazione per Domenico Zampolini è come? Zampolini subiva dei cori da body shaming veramente di cui io mi vergognavo, sì, mi vergognavo per chi li faceva a suo danno, perché veramente, dai, questo non è più sport, veramente è bullismo da curva, perché come ti ho detto lui molto corpulento riservavano a lui dei cori inascoltabili, irripetibili. Beh, intanto era in campo e ha fatto la differenza più volte. Faccio a un poeta spagnolo del Cinquecento che ripeteva: le tecniche in amore servono solo quando non si è innamorati, per cui non forzate gli atteggiamenti per essere al posto giusto nel momento giusto. Mi viene da pensare, beh, qualche accorgimento ci sta, ma che non sia una forzatura, altrimenti si rischia di diventare inopportuni, che è esattamente l'effetto opposto. Vedi la pallacanestro, quante sfaccettature che ha nella vita. Quanti collegamenti. Quanti collegamenti. E tra l'altro questa suggestione è nata da una tua citazione su Robert Horry, che è stato il protagonista che ho riportato nell'immagine della puntata, con la canotta in atteggiamento di tiro delle tre franchigie Houston, Los Angeles, Lakers e San Antonio Spurs. È rimasto sempre all'ovest lui comunque. Sì, sì, sì, sì. Domanda, ti faccio una domanda a cui Risposta secca, dai, proviamo una risposta secca. Robert Horry, 7 titoli, tutti questi record nei playoff, per te è da Hall of Fame o no? No. Sono bene, sono d'accordo, ma proprio perché è un middleman. È da Move to Groove. Quello esatto. Sì, è da riportare come particolarità al Move to Groove, ma non è da Hall of Fame. Pensa che in Hall of Fame ci sono dei grandi assenti. No, esatto. Oddio, faccio una postilla polemica. Negli ultimi anni, secondo me, ne hanno messi dentro un paio che, per quanto fantastici, meravigliosi e quant'altro, qualche riserva la portiamo. E magari, vedi, hai già dato un'idea per il prossimo Move to Groove, la Hall of Fame. Momenti bui, a Phoenix non imbrocava una, finita culminando il lancio delle asciugamani in faccia a coach Danny Ainge. Esatto. Quindi, ogni giocatore ha i suoi alti e bassi. Beh, però coraggioso, un asciugamani in faccia a Danny Ainge non no, ci penso neanche. No. No? Robert Horry, come detto prima, polemico per usare un eufemismo. Si atteggiava un pochino, L'imprevedibile martedì di Radio Città Fucico con il Move to Groove volge al termine. Sono le 8:48 minuti, sperando di aver tenuto buona compagnia, anche con qualche consiglio non richiesto, sperando di non risultare inopportuno. Mano Shant, in questo caso vediamo Gatto Barbieri al sax tenore per accompagnare questo lavoro che è un classico, uno standard jazz. Grazie Paolo Onofri da remoto per aver portato la nostra formazione al termine anche in questa puntata. Noi domani avremo il Voltiamo Pagina Libri a colazione sui 103.1 con Silvia Albertazzi, Stefano Calanchi e un ospite dal vivo per quanto riguarda la mia selezione letteraria. Grazie Pietro, Rookie of the Year, che hai grazie portato William, le idee, grazie Paolo. Anche le idee per una prossima puntata nella Hall of Fame, per quella che è l'arca della gloria. Sarebbe carino fare anche una Hall of Shame. La possiamo fare, anzi guarda, dividiamo la puntata a metà. Ottima idea, grazie. Vedi, queste giovani leve che hanno sempre la mente più fresca, ne sono ben contento. L'appuntamento a colazione a domani, tra poco le dipe enciclopedico Liberi Dentro, poi avremo il vinile della settimana da non perdere, curato e condotto da Andrea Gozza. Arriva un altro contributo dal nostro Paolo. No, è Silvia Albertazzi che dice: chi viene domani? Chi c'è domani? te lo dico, dai! Uno standard bellissimo, la grande musica del Breakfast Club e l'appuntamento a domani con il Voltiamo Pagina. Quindi ciao a tutte, ciao a tutti e un caloroso abbraccio dal vostro William Piana, da Paolo Onofri e da Pietro Rossi. Ciao, ciao, ciao, ciao.